È una giornata da stato di polizia che sembra non finire mai. Pochi minuti dopo la mezzanotte la polizia ha iniziato un'irruzione all'interno del centro stampa del Genoa Social Forum, dove si stava lavorando alla raccolta di prove sulle violenze di questi due giorni delle forze di sicurezza. Si tratta di una scuola elementare in piazza Diaz che in questi giorni ha funzionato da punto centrale delle iniziative del GSF. Per Popolare Network lì si trova Federico Bogazzi. Federico. Sì, precisamente ci troviamo in via Battisti, nelle scuole Diaz, dove ha sede il centro stampa e parte dell'organizzazione del Genoa Social Forum. C'è stata un'irruzione di polizia e carabinieri nelle due strutture che erano state assegnate al Genoa Social Forum come organizzazione, ufficio stampa e internet point. Un'irruzione molto violenta, stanno uscendo decine di feriti accompagnati da le ambulanze e i volontari per quanto riguarda il supporto medico del Genoa Social Forum. Nel frattempo è arrivato proprio in questo momento anche Vittorio Agnoletto, portavoce del Genoa Social Forum. Agnoletto, vi aspettavate una reazione di questo tipo a notte fonda? No, non ce l'aspettavamo, guardate, adesso stanno passando dei ragazzi massacrati di botte nelle barelle, proprio in questo momento davanti a noi. È una cosa assolutamente incredibile, non hanno nessun mandato dal magistrato, l'abbiamo chiesto, non ce l'hanno, sono entrati senza autorizzazione, è una cosa assolutamente vergognosa, questo è lo stato di polizia, questo è il risultato di questo ministro degli interni, di questo capo della polizia che non si fanno trovare in questo momento. Questa è la situazione, basta vedere centinaia e centinaia di poliziotti per una sede del Genoa Social Forum che ci è stata regolarmente data dal comune di Genova. Stiamo cercando il sindaco con cui non riusciamo a entrare in contatto. Chi in questo momento ha il comando delle forze di polizia non è un comportamento da Repubblica Italiana, è un comportamento da Stato sudamericano degli anni 70. Ecco, questo era Vittorio Agnoletto da Genova, per il momento è tutto. Grazie molte a Federico Bogazzi, lo avete sentito in collegamento dalle scuole Diaz. Ora lì ci sono alcuni parlamentari, c'è anche il portavoce del Genoa Social Forum, Vittorio Agnoletto. Il dialogo con chi sta gestendo questo tipo di operazioni è impossibile e questo sta avvenendo a mezzanotte e 42 minuti, dopo una giornata di violenze da parte delle forze di sicurezza. Ragazzi, io ho chiesto al questore, come senatore della Repubblica, di venire a vedere quello che stava succedendo, perché avevamo notizie che venivano picchiati dei ragazzi nella scuola. Il questore mi ha detto: non è così, se vuole può andare a vedere. Vengo qua assieme ad altri parlamentari del mio gruppo di Rifondazione Comunista, dei Verdi e di altre forze politiche. Arrivo sul cancello, chiedo di entrare, mi dice che non è possibile. Chiedo di parlare con un superiore, mi dice di no. Cerco di passare, sono stato picchiato tre volte. Questa è la situazione. Dopodiché, a regolari minuti di distanza, esce qualcuno in via orizzontale, con sangue fresco. È molto chiaro, è diverso il sangue fresco dal sangue di un giorno o due. Questi non sono sangue di scontri avvenuti chissà dove. È sangue fatto direttamente qua, con gente sicuramente inerme, perché non ho visto incidenti e scontri come non li vedo adesso. Vedo solamente uomini in armi che entrano e ragazzi che escono massacrati. Watch out mama, watch out mama, for the skyscraper. Where shall be your place when that world takes over?